Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. City of stars, are you shining just for me? Io non posso crederci, perché è una cosa stupenda. Questa settimana, quando si è fatta male Rafa, i ragazzi mi hanno fatto sentire come se avessimo giocato sempre insieme. Io ho cercato di farmi vedere che non avevo paura di prendere questa responsabilità. Guardate che partita, guardate che gruppo, l'allenatore, tutti, io non ho parole. That now our dreams, they finally come true. Voi sapete dove ero un anno fa, che io credevo che non sarei neanche riuscito a sopravvivere. Adesso sono campione d'Italia, io non lo so, io non voglio sembrare melodrammatico, però lo dico a tutte le persone che mai si troveranno a essere ammalate di cancro o hanno il cancro adesso. Non perdete mai la speranza, perché il sole può tornare a splendere, cazzo, perché io l'ho visto e io ce l'ho fatta. E non sono nessuno, sono una persona normale. Quindi io vi ringrazio tutti, perché mi avete scritto in tanti questa settimana e so che al mio angolo erano in tanti. E poi questa squadra è stupenda, io... Oh, guarda, io sono troppo felice. Ci sono sfide, giornate, partite, momenti che cambiano storie, destini, percorsi ed entrano nella tua vita in modo inaspettato, inatteso, imprevedibile e con esiti altrettanto stupefacenti e straordinari. Beh, oggi a Olimpia, la città dello sport, vi raccontiamo proprio una storia di questo tipo. Come sempre, qui vicino a me Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano. Ben ritrovato, professor Tirelli. Grazie Dario e un ben ritrovato a tutti i radioascoltatori. Professore, le piace la pallavolo? Molto, moltissimo. Lo trovo uno sport altamente intellettuale. Ricordo quando ho lavorato con pallavolisti, soprattutto negli anni 90, nella grande pallavolo, e avevo testato un livello anche culturale di un certo tipo e mi piacque molto quell'ambiente. E poi c'è questa obbligatorietà del passarsi la palla, che trovo semplice e straordinaria al tempo stesso. Bisogna essere per forza squadra, non esiste il dribblomane che risolve la partita da solo. Eh sì, forse questo è il più altruistico degli sport, sicuramente. E allora, un pallavolista, straordinario campione in campo e fuori, è il nostro ospite di questa sera, Jack Sintini. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie mille, buonasera e grazie per avermi invitato. Jack Sintini, sbaglio di molto se dico che quel 12 maggio del 2013 è stata la giornata più bella, se non della tua vita, di tutta la tua carriera. No, non sbagli. Guarda, io ho avuto la fortuna di giocare in tante squadre importanti, con eccezionali compagni di squadra, grandi allenatori, grandi organizzazioni, e di vincere tante, perché alla fine io ho raccolto più di 14 medaglie d'oro nella mia carriera, ma quella del 2013, lo scudetto vinto a Trento soltanto a 2 anni dalla diagnosi di tumore, è stato in assoluto il giorno più bello dal punto di vista sportivo e comunque anche un grande riscatto nella vita per me e per la mia famiglia, forse il più bello di tutti. 2 anni prima, nel giugno del 2011, infatti, ti era stato diagnosticato un tumore al sistema linfatico. Iniziava così un viaggio fatto di diagnosi, esami, cure, chemioterapia. Ti chiedo a bruciapelo, ti sei sentito tradito in quel momento dal tuo corpo? Guarda, un po' sì, nel senso che io veramente poi sono molto meticoloso in questo, anche adesso che ho smesso io continuo sempre a tenermi molto in forma, perché ci tengo, ormai ho quella forma mentale da quando sono bambino, e io ero sempre attentissimo, io non ho mai fumato, non ho mai bevuto, ho sempre mangiato in maniera corretta, ho riposato. Di sicuro quando ti viene diagnosticata la malattia la soffri, il colpo lo subisci, e andare in difficoltà fisica in quel modo, vedere il tuo corpo che cambia così rapidamente a causa delle chemioterapie, è un trauma. Non so dire se è più per gli sportivi che per le persone normali, penso che sia veramente forte, però un po' di sentimento di tradimento lo avverti. Ho capito che ci sono cose che ti arrivano anche se non hai colpa, però ho apprezzato il fatto, comunque ho valorizzato il fatto che quella vita sana non mi ha permesso di non ammalarmi, ok? Però mi ha permesso di curarmi in un certo modo, ha permesso ai miei medici di aggredire la malattia in un certo modo e il mio fisico comunque era preparato a reggere il colpo. Se fossi stato forse meno attento avrei subito di più gli effetti collaterali e chissà, magari avrei recuperato con meno facilità. Oggi ricordi di più il giorno della diagnosi o quel 12 maggio del 2013? Quella giornata assolutamente, in quella giornata io ho ricordi fantastici, mi vengono ancora i brividi se ci penso, c'era la mia bimba che aveva compiuto da poco 4 anni, mia moglie che ho visto nei suoi occhi e proprio la speranza che tutta quella sofferenza fosse finalmente alle spalle, i miei genitori, i miei fratelli, tutto quell'ambiente della pallavolo che comunque mi era stato seriamente, concretamente vicino in un periodo difficilissimo, c'erano i medici che sapevo che mi guardavano in televisione, i miei parenti, guarda, il giorno della diagnosi è stato assolutamente eclissato da quel momento. Quel giorno il destino sembra aver voluto saldare un debito nei tuoi confronti. Ti ritrovi in campo, palleggiatore titolare, a guidare la tua Trento nella gara decisiva per lo scudetto. E pensa che non avevo giocato mai per tutta la stagione. Trento mi aveva già dato la grande chance di rientrare nel giro che conta subito, perché io ho fatto il trapianto di midollo a dicembre del 2011, a maggio ho firmato il contratto con Trento, che non ero assolutamente un atleta nel 2012, tutta l'estate l'ho passato ad allenarmi per cercare di essere all'altezza durante la stagione dell'impegno che loro mi chiedevano, però non ho giocato mai. Ma diciamo la vita, il destino mi ha dato proprio questa grande occasione di giocare una finalissima, decisiva da protagonista. Purtroppo si era infortunato il mio compagno, ma grazie a Dio poi dopo lui si è ripreso velocemente e ho dovuto giocare quella partita. Una chance, un'occasione, un'opportunità insperata che siamo riusciti a cogliere. Quindi sì, veramente, sembra che il destino abbia voluto dire dai, hai sofferto tanto, ti do di nuovo questa opportunità perché ti sei guadagnato questa occasione sforzandoti di tornare in campo. Ecco, il campo. Quando sei entrato nel Palazzo dello Sport, sul parquet, a pochi istanti dall'inizio della partita, cosa hai provato? Allora, ero tesissimo perché intanto era la mia prima partita veramente che giocavo intera da 2 anni. Un anno in ospedale, un anno ad allenarmi ma senza giocare mai una partita. E non è che l'esordio in una finale gara 5 scudetto è così facile. Diciamo che quelle partite non è che sono proprio amichevoli, c'è un livello di stress che è altissimo. Quindi ero teso, in più sapevo che c'era tutta questa storia dietro, che un sacco di gente aveva aspettative su questo mio rientro e quindi sentivo comunque la responsabilità di voler far bene. E guarda, io sono entrato in campo, mi ricordo che non ho guardato da nessuna parte, guardavo per terra, guardavo soltanto le mie scarpe, guardavo il pallone mentre palleggiavo che mi riscaldavo, non ho voluto guardare in giro perché se incrociavo lo sguardo di qualcuno, soprattutto, che ne so, magari mia moglie o i miei parenti o qualche allenatore, mi sarei messo a piangere, quindi ho cercato di rimanere molto concentrato su quello che dovevo fare. E però era bello, ero così orgoglioso di essere lì, così felice e mi tornava, pensa, uno dice magari sei talmente concentrato che non ti torna in mente niente, invece anche durante la partita tantissime volte mi è tornato in mente il periodo in ospedale e dei pensieri che facevo concretamente e dicevo ecco, chissà se mai riuscirò a tornare a giocare a pallavolo, chissà se mai riuscirò a tornare a star bene e mi mancava così tanto che quando sono stato lì in campo non mi sembrava vero. Le alzate più belle che hai fatto in quella partita te le ricordi? Allora, due. La prima palla che ho toccato è stata la più bella, nel senso che mi ricordo che avevo tutti gli occhi addosso e sapevo di averli, soprattutto dei miei compagni. In quel momento a me mi interessava convincere i miei compagni che ero pronto a giocarmi quella partita. E la prima palla che è arrivata, mi ricordo che era una palla molto staccata. Io in una frazione di secondo ho pensato, devo fare un'alzata di alto livello subito. Quindi avevo due scelte, o giocare una palla alta, più sicura, più comoda, in avanti, oppure saltare e cercare questa giocata molto più difficile all'indietro. E ho scelto quella perché ho detto faccio vedere a tutti che sono qua per giocare, non è che sono qua perché insomma per far compassione a qualcuno, nel senso, no, ho detto faccio vedere ai miei compagni ma anche ai miei avversari che me la gioco subito. E quella è stata una giocata che è venuta benissimo e mi ha tolto anche molta tensione. E poi l'ultimo cambio palla che abbiamo fatto prima di fare il break decisivo poi per vincere lo scudetto, che c'eravamo un po', Piacenza ci aveva incastrato in una rotazione in cui stavamo facendo fatica a fare cambio palla, e mi sono affidato a un mio compagno proprio dicendoglielo: guarda, adesso tocca a te, metti giù questa palla, perché se la metti giù poi non ci fermano più. E lui era molto stanco, alla fine era Osmani Guantorena, e lui mi ha detto: dai, dammela. Lì ci siamo presi una responsabilità insieme ed è andata bene, quindi è stato un bel momento perché abbiamo fatto proprio un po' quadrato insieme. Emozionante davvero sentire Jack Sintini raccontarci la sua partita, e quella partita che gli è valsa uno scudetto, e la partita che continua ancora oggi, seppur vinta, no? Perché ha cambiato un destino, una vita. Beh, prendiamoci però, professor Tirelli, qualche istante di pausa, poi ci ritroviamo qui a Olimpia ancora con Jack Sintini, il grande campione sottorete, questa sera ospite di Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. Ben ritrovati qui a Olimpia, questa sera nostro ospite per parlare di pallavolo, ma anche di altre tante importanti partite vinte fuori dal campo, un campione davvero eccezionale, pluriscudettato sotto rete, Jack Sintini, ben ritrovato a Olimpia. Buonasera e grazie per avermi invitato. Dal tumore allo scudetto è il viaggio di Giacomo Jack Sintini, tricolore nella pallavolo con Trento nel 2013, dopo aver sconfitto un cancro linfatico appena 2 anni prima. E giocando poi quell'anno solo la partita decisiva per il tricolore, gara 5 della finale scudetto contro Piacenza, incredibile. Jack, ti chiedo oggi, hai mai sentito nei giorni della malattia il tuo destino come un nemico? Io pochi giorni dopo la diagnosi, che è stato il 1° giugno del 2011, ero andato in ospedale per fare degli esami, perché cercavamo di catalogare bene il tumore che mi aveva colpito e fare una stadiazione. E continuavo ad avere brutte notizie, perché il mio tumore era molto avanzato, perché la mia condizione, il mio quadro clinico era veramente complicato e si complicava di giorno in giorno. E c'è stato un momento in cui ho avuto per la prima volta il pensiero naturale, spontaneo di dire: perché proprio a me, no? Perché ti viene purtroppo quando sei abbattuto. E la vita mi ha fatto un regalo. Lì in sala d'attesa con me c'era una bambina di 3 anni che doveva fare degli esami che stavo facendo anche io, perché anche lei era ammalata. E proprio in quel momento io, la mia bambina Carolina aveva 3 anni, e io mi sono sentito così fortunato di dire: vedi, questa cosa ha colpito me, non ho nessun diritto di fare la vittima, nessun diritto, perché come ha colpito me può colpire chiunque, e tu sei tanto fortunato perché invece che essere la tua bambina ammalata puoi essere tu a combattere questa cosa, quindi non ti lamentare, cerca di rimboccarti le maniche e dati da fare. Professor Tirelli, una domanda per Jack Sintini. Ho notato che nell'ambito di questo recupero meraviglioso, eccezionale, fisico e psicofisico, c'è stata e c'è soprattutto una grande euforia, una grande capacità di trasmettere felicità. Questo è molto positivo. Da dove prende questa energia entusiastica? In realtà la formazione che mi ha dato lo sport è stata varia, quindi sia tecnica che anche mentale, sia da parte degli allenatori che ho avuto, gli esempi che ho avuto come leader delle squadre in cui sono stato, e anche mental coach. Comunque noi abbiamo lavorato sempre sia in nazionale che anche nei club con delle persone che ti aiutano a indirizzare i tuoi pensieri, a ottimizzare le tue risorse. E devo dire che anche quando mi è arrivata la malattia, in maniera abbastanza naturale e spontanea, io ho messo in campo tutto quello che avevo imparato da quando sono nato a quel momento, perché mi sono trovato così tanto nel bisogno che tutte le risorse che avevo a disposizione io ho provato ad utilizzarle, e sicuramente quello che avevo imparato anche in campo in spogliatoio mi è stato utile anche in ospedale: saper far squadra con le persone intorno a te, cercare di rimanere motivato anche nei momenti difficili, accettare di essere in difficoltà, essere disciplinato nelle cure, sono tutte cose che mi sono servite tantissimo anche nella malattia. Oggi Jack, con quello scudetto sul petto e a guarigione completata, che rapporto hai col futuro? Come lo vivi? Oh, bello, bellissimo, intanto perché sono molto felice e so quanto sono fortunato ad avere un futuro, perché non era così scontato, e dopo che hai avuto una paura così grande lo apprezzi molto. È un rapporto che ho che è molto meno ansioso di prima. Prima avevo sempre una grande smania di vivere tutto quello che vivevo con l'idea che mi doveva portare da qualche altra parte, no? Cercavo sempre vivevo sempre il presente come una cosa che era un passaggio per arrivare poi a qualcos'altro. E questo ce l'ho ancora, nel senso che mi piace essere ambizioso, mi piace darmi nuovi obiettivi, però mi godo molto di più il momento che sto attraversando. Quindi ho degli obiettivi, so che quello che sto facendo può essere un mezzo per arrivare più avanti, per realizzare altre cose, però ho un rapporto col futuro che è molto più calmo. E l'altra cosa è che mi fa meno paura. Nonostante io sia stato scottato, adesso ho meno paura perché ho visto che sia io che la mia famiglia abbiamo le risorse per affrontare difficoltà importanti. Jack Sintini, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, è stato un onore, e chiamatemi quando volete. Professor Tirelli, a me questa chiacchierata con Jack Sintini mi ha messo una grande energia, forse proprio l'euforia al tratto distintivo di questo campione, dopo questo incredibile e periglioso viaggio che ha compiuto. Sì, anche a me ha dato questa sensazione di contagio positivo, ed è un contagio che sicuramente è stato trasmesso anche agli altri componenti del team nella sua esperienza, soprattutto di quella splendida finale. Un altro aspetto che a me ha colpito molto è la capacità, da come egli stesso ha riferito, di isolarsi durante il match dal resto dei fattori esterni. C'è una sorta di implosione in termini di attenzione. La chiamiamo proprio un'attenzione propriocettiva, dato dal fatto che sia a livello fisiologico, attraverso l'attivazione di recettori nervosi, e anche dall'aspetto fisico, si ha la capacità di ascoltarsi, tanto da isolare quelli che possono essere gli elementi di disturbo, in questo caso addirittura positivi, perché lui parlava del fatto che in quel momento sapeva che il medico che l'aveva operato poteva, anzi lo stava sicuramente osservando dalla televisione, che c'erano parenti, familiari, e noi sappiamo che a volte addirittura il fin troppo affetto, il fin troppo amore può fare qualche volta dei brutti scherzi. L'atleta che ha la capacità di bilanciarsi, di ritrovare il baricentro all'interno di se stesso, è un atleta sicuramente forte. E lei come lavora per aumentare, per allenare questa facoltà? Beh, una cosa che io propongo sempre agli atleti è quello di, banalmente parlando lo dico, ma adesso spieghiamo perché, di credere in se stesso. Cioè, se vuol dire dentro di sé. E in questo a tutti i livelli, sia rispetto alle possibilità di disturbo esogeno dell'ambiente intorno a noi, ma anche rispetto a dei rituali, a delle situazioni consuetudinarie che possono essere a volte deleterie. Qua entra in ballo il destino, no? Ne parlavamo proprio con Jack Sintini, penso che sia la prova più estrema la capacità di non sentirsi pungolati dal destino quando un male ti aggredisce in modo così violento. Anche quella è una forza che puoi avere, può non avere, ma puoi anche sviluppare, insomma, no? Tendenzialmente con i miei atleti agisco in modo un po', come dire, deciso in questo caso. Non amo l'atleta che tende a autocommiserarsi, che tende a denigrarsi o comunque a pensare che ci siano fattori al di fuori dello stesso atleta che possono influenzare il cammino. In poche parole, io non credo ad un destino già predefinito, tantomeno nell'ambito di una carriera sportiva. Penso che ognuno di noi sia artefice dei propri pensieri e di conseguenza delle successive azioni. Quindi, così come possiamo aver seminato in un dato modo e magari coltivato forse malamente per poi raccogliere delle sconfitte, altrettanto è possibile interrompere questo ciclo vizioso e renderlo virtuoso attraverso la costruzione di immagini, pensieri e azioni che siano in questo caso virtuosi e costruttivi. Questo, voglio dirlo, non è una teoria, questa è la pratica, ed è la pratica che maggiormente mi compete, che vedo verificarsi nel più delle volte con i miei atleti. Ma è mai capitato un atleta superstizioso, che ne so, col cornetto rosso in tasca o che si tirava il sale dietro la schiena prima della partita? Come fai con quello? Sì, soprattutto per esempio avendo lavorato tanto in Africa con atleti, calciatori di squadre africane, chiaro è che lì in quel settore, in quell'ambiente, l'aspetto della superstizione, della cultura di un certo tipo prende spesso il sopravvento. Una volta ricordo, ma anche per esempio in Medio Oriente, ricordo una volta in prossimità di una semifinale di Champions League asiatica, il portiere della nostra squadra, di cui non farò il nome e neanche tantomeno il nome del giocatore, era convinto di aver subito una sorta di sortilegio negativo nei propri confronti da parte del competitor dello stesso ruolo, tant'è che aveva somatizzato questo proprio con situazioni di malessere, emicranie e altre cose che non sto qui a dire, che condizionavano la quotidianità dello stesso atleta e l'allenamento. Lo portammo con lo staff medico a fare degli esami, eravamo in Cina in quel momento, anzi in Corea, scusate, e lì facemmo degli esami sia con la medicina tradizionale coreana sia con la medicina tradizionale occidentale, e vedemmo come a livello di clinica non c'era nulla. Bastò, tra virgolette, parlargli, entrare in confidenza, far capire che veramente siamo noi il baricentro della nostra vita e non agenti esterni, per potergli permettere poi di veramente realizzare una bellissima semifinale che ci portò poi alla finale stessa che vincemmo. E beh, più forte di qualsiasi superstizione, di qualsiasi destino, si è dimostrato quel portiere che col suo aiuto, professore, ma anche Jack Sintini, che ci ha raccontato la sua storia e il suo nuovo cammino anche da testimonial, diciamo, sì, di questa sfida che si può e si deve sicuramente giocare e si può davvero vincere. Professor Tirelli, la ringrazio per essere stata anche questa sera qui al mio fianco ad Olimpia. Direi che ci stiamo divertendo parecchio quest'anno. Sì, moltissimo. Io continuo a dire, mi raccomando, credere veramente realmente in se stessi e avanti con le proprie forze, sempre comunque.